giocare, jugar. Giocare a calcio, giocare a scegliere una canzone che ti rappresenta. Jugare a immaginarnos escenari di incontro con vos. Giocare a immaginare scenari di incontro con te. Sono convinta che anche se sei ancora in prigione, non ti hanno rubato il gioco, questa forma così sottile di resistenza. E che ciò che ti rende felice è che non smettiamo di giocare per la tristezza di saperti prigioniero. Che parola difficile a dire in italiano, prigioniero. Perché smettere di giocare significerebbe anche perdere la nostra libertà, quella per cui combattiamo sempre e quella che continueremo a nominare mille volte finché non sarà di nuovo la parola che ci dirai guardandoci negli occhi. Libertà. Libertà, questa è la parola che apre la puntata di Fujiko Factory di lunedì, quindi benvenute e benvenuti a tutte e tutti per una puntata speciale che abbiamo deciso di dedicare a Patrick Zaki, studente dell'Università di Bologna arrestato un anno fa in Egitto. E quindi abbiamo pensato di creare una puntata speciale dedicata a Patrick, una puntata un po' strana e un po' emozionante. Noi siamo tutte emozionate perché qua con me ci sono Lucre e Anna, ciao ragazze. Ciao. Ciao. Una puntata speciale, una puntata corale che abbiamo costruito insieme alle amiche, agli amici, alle compagne e compagni di corso di Patrick. Abbiamo chiesto a loro di scegliere una canzone e quindi la puntata di oggi sarà, diciamo, una grossa playlist di solidarietà per Patrick, composta dalle canzoni che loro vogliono dedicare a Patrick. E anche noi abbiamo deciso di dedicare una canzone a Patrick e vorremmo iniziare la puntata di oggi con un primo pezzo. Questo è per Patrick. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know, you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those observers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Tornando Talking About a Revolution di Tracy Chapman, che riapre questa puntata speciale per Patrick. Noi siamo molto emozionate, quindi sì, cioè, bisogna già ammettere questa cosa. E lo ripeteremo più e più volte perché sembra banale, però siamo anche agitate, perché noi ci teniamo a fare questa puntata, che è di supporto e in solidarietà a Patrick, e quindi diciamo che abbiamo cercato di rendere più partecipativa e partecipata a questa puntata in tutti i sensi, oltre alla playlist scelta da delle amiche, gli amici, le colleghe e i colleghi di Patrick, i nostri contributi e i loro contributi, perché sentiremo più tardi anche le loro voci, e poi diamo la possibilità anche alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori di collaborare con noi. Quindi vi invitiamo a scriverci innanzitutto al 333 180 94 94 messaggi di solidarietà per Patrick, che riporteremo come sempre qua in diretta, ma anche musica, perché alla fine di questa puntata creeremo una playlist collaborativa in cui chiunque potrà aggiungere la propria canzone da dedicare a Patrick. Esattamente, infatti è una sorta di chiamata alle arti, è stata definita così, quindi già il nome è una cosa molto bella, quindi mobilitazione e solidarietà, e noi vi invitiamo a mandarci un SMS, WhatsApp e Telegram, un audio, una playlist, tutto quello che volete al 333 180 94 94 per rendere la nostra puntata, ma anche i nostri canali social, una sorta di piazza virtuale. Tante sono le iniziative e ovviamente l'unico obiettivo è di rivederlo libero. Quindi la parola, diciamo, del giorno di questa nostra puntata di Fujiko Factory d'eccezione è libertà. Lanciamo anche gli hashtag, perché noi effettivamente li lanciamo sempre. Lancialo tu. L'hashtag è Patrick Libero. Patrick Libero, e tra l'altro potete già vedere anche sui nostri canali social Facebook e Instagram un po' le foto che abbiamo fatto in redazione, e potete però essere anche voi parte di questa piazza virtuale che stiamo cercando di costruire tutte insieme, tutti insieme. Quindi potete scriverci sia sui nostri canali social che sul nostro numero. E noi abbiamo raccolto canzoni che abbiamo montato con tanta fatica e con tanto piacere, e quindi tutte queste canzoni, ripetiamo, sono scelte dalle colleghe e colleghi di Patrick, ma non solo, avremo anche due canzoni che Patrick mandò a una sua amica, che lei ha avuto anche il piacere di condividere con noi, e anche canzoni che la sorella di Patrick ha dedicato al fratello. Quindi io direi di iniziare passando il primo pezzo, che è una dedica da parte di Valentina, e quindi andiamo ad ascoltare le sue parole. Patrick, ti dedico questa canzone di Rosa Balistreri, perché sei una persona curiosa e sono certa che l'apprezzerai. Si intitola Carceri che si è fatto cruci cruci. Carceri in siciliano significa carcere, e lei sa cantare con rabbia e con strazio il nostro strazio e la nostra rabbia. Tu sei in carcere da un anno per reati che non solo non hai commesso, ma che proprio non esistono. Un anno, in base a dove lo vivi, da dove lo guardi, può essere un tempo breve, un tempo infinito, può essere anche un tempo fuori dal tempo. Un anno è troppo, era troppo già un anno fa. A presto, Patrick. Carcere che si è fatto croce croce, maledetto giovane che ti dice se meritava già l'anima dannata, e già per prima la valera vita. Mi ci hanno messo a mia come un cane, è incatenato peggio d'un leone. Yes. falso odore. Rieccoci per questa puntata speciale dedicata a Patrick. E arrivano già i primi messaggi. Ci scrive Lau: grazie per questa bellissima puntata dedicata a Patrick. Grazie Lau per averci scritto e aver condiviso questo messaggio. Grazie anche per la fiducia che ci scrivi bellissima puntata, esatto, dopo 15 minuti. Apprezziamo. Anche esatto, perché non abbiamo detto la cosa più importante, ma oggi ci siamo proprio prese tutto lo spazio a disposizione all'interno di Fujiko Factory, appunto perché vogliamo che sia un Fujiko Factory d'eccezione, quindi tutta una puntata interamente dedicata alla parola del giorno, che è libertà, e Fujiko per Patrick. Esatto, quindi fino alle 17 in vena eccezionale saremo in diretta con voi. Riporto un altro messaggio che ci ha scritto Cinzia dicendo: ciao ragazzi di Fujiko Factory, io sono Cinzia e anch'io dedico Patrick Zaki libero. Io piango sempre ogni volta che si parla di questo straordinario ragazzo di cui non ci ho mai avuto a che fare, quindi ancora Patrick Zaki libero. Grazie Cinzia. E a proposito di questo vi raccontiamo un po' però come è passato questo anno, soprattutto per chi magari ci sta ascoltando e diciamo magari gli manca qualche passaggio. Il 7 febbraio 2020 Patrick, studente del Master in Studi di Genere dell'Università Alma Mater di Bologna, è stato fermato all'aeroporto del Cairo, la capitale dell'Egitto. Dopo diverse ore di sparizione forzata è ricomparso il giorno dopo di fronte alla procura della città di Mansoura, dove è stato convalidato l'arresto sulla base di un mandato di cattura contenente le accuse di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazioni illegali, sovversione, diffusione di notizie false e propaganda per il terrorismo. Dopo estenuanti rinvii, le prime due udienze del processo si sono tenute soltanto a luglio. Nella seconda, il 26 di quel mese, Patrick Zaki ha potuto vedere per la prima volta i suoi avvocati dal 7 marzo. In quell'occasione è apparso visibilmente dimagrito. Il 25 agosto, sempre per la prima volta da marzo, ha potuto avere un breve incontro con sua madre. Il 7 dicembre il giudice della terza sezione del Tribunale Antiterrorismo del Tribunale del Cairo ha annunciato il rinnovo per 45 giorni della custodia cautelare. Dopo una prima fase di 5 mesi di rinnovi quindicinali ritardati dall'emergenza Covid, per Patrick Zaki è iniziata quella dei prolungamenti di 45 giorni che può protrarsi fino a un tempo massimo di 2 anni, come previsto dalla legge egiziana. Le accuse a suo carico sono basate su 10 post di un account Facebook che i suoi legali considerano fake, a differenza dei procuratori, ma che hanno configurato i reati di diffusione di notizie false, incitamento alla protesta, istigazione alla violenza e i crimini terroristici. Reati che gli fanno rischiare fino a 25 anni di carcere. L'obiettivo della detenzione preventiva prolungata è di consegnare un prigioniero all'oblio. Per questo è fondamentale che in vista dell'udienza di sabato prossimo e di quelle che eventualmente seguiranno non si disperdano l'entusiasmo, l'emozione e la solidarietà dell'ultimo mese e che ognuno continui a fare la sua parte, lo ha dichiarato Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Il 19 dicembre Patrick Zaki ha potuto incontrare nuovamente la madre nel carcere di Tora. Le ha detto queste parole: sono fisicamente e mentalmente esausto, non ne posso più di stare qui e mi deprimo ogni tappa dell'anno accademico, mentre sono qui invece che coi miei amici a Bologna. In questi mesi la famiglia aveva ricevuto da Patrick solo 2 brevi lettere a fronte delle almeno 20 che aveva scritto e inviato. Insomma, questo è un po' il riassunto per tappe di quello che è stato questo lungo anno di detenzione per Patrick Zaki, che è importante ricordare è una detenzione preventiva. Quando si parla di processi si parla sempre, insomma, di un processo che in realtà non c'è mai stato ancora, Patrick Zaki non è ancora non è stato trovato accusato colpevole anche di niente, è stato accusato ma non ha avuto nessuna occasione di provare la sua innocenza. Fino ad ora continua una detenzione preventiva, questo è molto importante sottolinearlo. Esatto, una detenzione preventiva che va avanti di 45 giorni in 45 giorni, perché alla fine di questi giorni viene sempre purtroppo rinnovata e noi ormai è un anno che aspettiamo la libertà e aspettiamo Patrick qui a casa, perché questa è anche casa sua, e quindi andiamo avanti con la musica. Questa è per Patrick. Ho scelto questa canzone innanzitutto perché so che a Patrick piace molto, l'ha definita una lovely song, e poi perché parla di una persona molto ambiziosa e vitale, energica, che vuole fare tante cose. C'è una, un verso della canzone che dice: vuoi fare così tante cose, ma c'è un numero limitato di ore in una giornata, e trovo che sia una descrizione molto accurata di Patrick, di com'è Patrick come persona. E il significato della canzone, che è Vienna waits for you, è un po', insomma, il tuo futuro è lì e ti aspetta, non va da nessuna parte. E mi sembra anche un bel messaggio per Patrick. Spero che abbia presto la, l'occasione di iniziare a vivere il suo futuro, ecco, di tornare alla sua vita. For a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. That you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. Can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. Satisfied. Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you and get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you? Chiamata alle arti, appunto, per urlare a gran voce tutte e tutti insieme, appunto, libertà per Patri Zaki. Tra l'altro, appunto, noi facciamo una sorta anche noi di maratona musicale, la stessa che però ha proposto anche Amnesty, quindi Voci per la Libertà, per chiedere il rilascio dello studente egiziano. 12 ore di musica per la liberazione, una fitta giornata dell'8 febbraio per Voci per Patrick, maratona musicale per chiedere la sua liberazione, un evento in streaming dalle 12 alle 24, promosso da Amnesty International Italia, MEI e Voci per la Libertà. Oltre 140 sono state le adesioni da parte di artisti delle più svariate sfaccettature musicali, per un appuntamento che si preannuncia come la più grande mobilitazione musicale dedicata allo studente egiziano dell'Università di Bologna, che è detenuto, ricordiamolo, in carcere come prigioniero di coscienza a causa del suo lavoro per i diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media. un evento, una mobilitazione che rappresenta una delle tante. Ad esempio qua a Bologna qualche tempo fa Patrick è stato dichiarato, è stato, come si dice, proclamato. Gli è stata conferita la cittadinanza onoraria. E quindi c'è, ci sono tutte queste iniziative da parte delle istituzioni e da parte anche delle compagne, delle amiche di Patrick, per dare, diciamo, visibilità a questo caso che purtroppo da un anno la situazione sembra essere ancora ferma, e la cosa importante è appunto la libertà per Patrick, e quindi noi speriamo che arrivi presto. Certo, esatto, infatti è partita appunto questa petizione online per chiedere la cittadinanza italiana per Patrick, un appello a cui si è unita tra l'altro anche la famiglia proprio di Patrick, che ha salutato con approvazione questo appello, e chiedendo appunto che venisse promosso, un appello che è stato tra le altre cose sottoscritto anche da vari portavoci politici, da Amnesty, insomma in generale, diciamo, sarebbe sicuramente molto importante che questa azione venisse presa, e anche un segno di impegno politico da parte dell'Italia. Appunto, perché sono tante le iniziative con sempre appunto il solo obiettivo di rivederlo libero. Mobilitazione e solidarietà, la nostra anch'essa vuole essere una chiamata alle arti, ma ovviamente non bastiamo noi, abbiamo bisogno anche di voi, quindi potete creare insieme a noi questa piazza virtuale per urlare tutti insieme libertà per Patrick al 333 180 94 94. E a proposito di piazze, la prossima canzone che hanno dedicato a Patrick è una canzone a noi molto cara, di un artista bolognese, e quindi andiamo a sentirci Piazza Grande di Lucio Dalla. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. Mio, avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio, avrei bisogno di sognare anch'io, una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande, a chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho, con me di donne generose non ce n'è. Rubo l'amore in Piazza Grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai, a modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande, e se la vita non ha sogni io li ho, io te li do, e se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. You both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Patrick Libero, e la puntata inizia, anzi inizia, è già iniziata, prosegue. È una puntata speciale, ricordiamo, per chi si fosse sintonizzata o sintonizzato in questo momento, una puntata di Fujiko Factory dedicata a Patrick Zaki. E la parola del giorno, possiamo chiamarla così, è libertà, appunto, perché noi vogliamo la libertà di Patrick e vogliamo riaverlo con noi. Abbiamo appena sentito la canzone A rientro della pubblicità, una canzone scelta e dedicata dalla sorella di Patrick, che ha voluto mandarci questo contributo per esprimere anche lei questa vicinanza e in solidarietà a Patrick. E quindi, insomma, noi la ringraziamo, ovviamente anche noi le esprimiamo tanta solidarietà, esatto, e vicinanza. E purtroppo Lucri se n'è andata, c'è stata anche questa imprevisto. Abbiamo perso Lucri, potrebbe, esatto, essere perché aveva lo sgabello basso di cui Adele tanto si era lamentata qualche giorno fa. Esatto, però comunque era sempre più alta di me, però pazienza. E ci continuano a scriverci e ci scrive di nuovo Cinzia dicendoci: cari ragazzi di Fujiko Factory, sono Cinzia, io voglio dedicare a Patrick Zacchi la canzone Partigiana Bella Ciao. Quindi ringraziamo Cinzia per questa dedica, e Cinzia ci ricorda, involontariamente forse, di ricordare a voi ascoltatrici e ascoltatori che chiunque può dedicare una canzone o un audio a Patrick, perché noi al fine di questa puntata poi raccoglieremo tutte le canzoni che arriveranno e le metteremo in una playlist condivisa e collaborativa, si chiamano così su Spotify, ho scoperto qualche giorno fa, in cui chiunque appunto può dedicare questa canzone per Patrick. E quindi scriveteci al 333-180-94-94, scriveteci, mandateci audio, insomma vogliamo che questa puntata sia anche una puntata il più partecipata possibile. Potete farlo scrivendoci appunto al 333-180-94-94, ma perché no anche condividendo foto o messaggi sui social e taggandoci. Esatto, l'obiettivo di questa giornata è chiaramente quello della solidarietà nei confronti di Patrick. Noi abbiamo cercato di, anzi vorremmo creare una sorta di piazza virtuale nell'impossibilità in questo momento di scendere in piazza, e quindi se volete mandarci delle foto e pubblicarle sui social, noi poi le raccoglieremo, le ricondivideremo dalla nostra pagina. Noi abbiamo fatto una foto prima in redazione con un cartello Patrick Libero, che sarà anche l'hashtag da mettere diciamo in queste foto. E forse dopo ci raggiungerà anche un'altra ospite, ma non lo sappiamo, perché è un ospite un po' che si fa attendere. Abbiamo mandato un messaggio che sta bevendo il mate sul bus. Questo potrebbe dare degli indizi alle ascoltatrici e agli ascoltatori più attenti. Esatto, e quindi noi, se la nostra ospite ci sta ascoltando, chiediamo di darci notizie sul percorso del bus. Credo che sia al 18, quindi per favore ascoltatrice scrivici dove sei per capire se arriverai mai con noi, però noi l'aspettiamo e andiamo avanti con la musica e un'altra canzone dedicata a Patrick. Ho scelto questo brano perché se questa condizione è così pesante e oppressiva, non c'è tempo migliore di questo per chiedere e ricevere amore, affetto e solidarietà. Ho scelto questo brano per dirti, Patrick, che ti stiamo aspettando. No time for breezy, no time for arguments, no time for love like now. No time in the bardo, no time in the in-between, no time for love like now. There's no time for dancing, no time for undecided, no time for love. No Time for Love, un'altra canzone dedicata dalla playlist bellissima che in questa puntata di Fujiko Factory stiamo cercando di costruire per dedicare a Patrick, e nel mentre è arrivata la nostra ospite che io chiedo di farsi viva e salutare. Ciao a tutte e tutto. Ciao. Ciao. Chi sei? Dici chi sei. Io sono Paola. Ciao Pau. Sono una cara amica di Patrick, del Master Gemma, e anche molto emozionata di essere qua adesso con le mie amiche pure per la radio. Esatto, perché dobbiamo dirlo, Pau è una nostra cara amica, quindi ringraziamo per essere qua, ma Patrick non è solo un'amica nostra, è un'amica anche di Patrick, e quindi cercheremo, andando avanti nella puntata, di farci raccontare di più su Patrick e sulla situazione che sta vivendo adesso. E andiamo avanti nella puntata dicendo anche tutte le come si dice, Anna, non mi viene la parola, le varie novità, cioè, le notizie, gli aggiornamenti. Sì, vedo l'emozione negli occhi di Adele dall'altra parte del vetro, però sì, esatto. Ci sono, appunto, lo dicevamo anche prima, ci sono tante iniziative per Patrick in questi giorni, e una di queste sarà alla Sala Borsa. Tra l'altro è importante ricordare, insomma, appunto, Patrick Zacchi, lo abbiamo detto più volte, è uno studente del Master Gemma, di cui tra l'altro anche Pau è una studentessa, e qualche giorno fa anche sulla radio avevamo sentito per esempio la coordinatrice del Master Gemma Rita Monticelli, che aveva proprio sottolineato come Patrick in tutto questo anno abbia continuato a chiedere di poter tornare a studiare. E sempre sul tema dello studio nasce la sala studio temporanea dedicata a Patrick, gestita dalla biblioteca Sala Borsa e allestita all'interno della sala degli atti di Palazzo Renzo. Una nuova sala studio dedicata a Patrick Zacchi è la Sala Borsa Pop-Up, che da lunedì 8 febbraio, ovvero oggi, aprirà i battenti e sarà gestita dalla biblioteca Sala Borsa. Ringrazio il Comune a nome di tutta l'Università per questa iniziativa e per averla voluta dedicare a Patrick proprio in questi giorni in cui ricorre un anno dalla sua detenzione. Questo è il commento di Elena Trombini, prorettrice degli studenti dell'Università di Bologna. Sì, sempre rimanendo in tema università o comunque studi, anche stamattina l'Università ha organizzato una diretta curata dal Rettore per appunto dimostrare o comunque visibilizzare questa situazione, perché Patrick era anche prima di tutto uno studente e manca alle compagne di corso, ai compagni di corso e a tutte le persone che hanno avuto Patrick all'interno del anno, Patrick all'interno del loro percorso di vita, perché Patrick era qua da un anno, ricordiamolo, per studiare. E quindi noi abbiamo anche la nostra ospite, a cui sicuramente dopo faremo un sacco di domande. La vedo già che mi guarda un po' spaventata, ma non ti preoccupare, Pao, sarà una simpatica chiacchierata in questo lunedì pomeriggio di sole, tra l'altro, che è sempre bello il cielo azzurro sopra Bologna. È ritornato il cielo azzurro sopra Bologna. Che poesia sui 103.100 alle 15.45. Esatto, ma noi andiamo avanti con la prossima canzone, che è dedicata, che ha dedicato Coralle, un'altra amica e collega di Patrick, che noi andiamo ad ascoltarci. Ho scelto queste canzoni perché quando le ho conosciute mi hanno riempito di forza in un momento tanto difficile a livello emotivo per tutti quanti, con l'incarceramento del nostro amico Patrick, e in più perché sento che rappresentano molto bene la situazione politica egiziana e tutte quelle domande e richieste e lotta che continua a fare la popolazione e che i rapper e i rocker hanno saputo espressare molto bene. E sono canzoni di molta forza, forse che è importante in questo momento. Un abbraccio a tutti. اجتماعية عيش بالمصري يعني حياة عاشها المصري الحضارة سنين وإن لو يعطش مجراه يروي عرق المصريين عايش بالمصري يعني حياة أشهر مصري حضارة سنين وإن لو يعطش مجراه بكرة يفيد ويوفي الدين عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية لقمة عيش الناس الأمراء الفلاح والعامل يابا لقمة عيش مش لقمة صخرة تيجي بعديها أي حقوق لقمة عيش الناس الأمراء الفلاح والعامل يابا لقمة عيش مش لقمة صخرة هناخدها لو مش بالسوق عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية لما تقول كلمة حرية لازم ترفع ايدك فوق الحرية لقمة هنية تيجي بعديها اي حقوق لما تقول كلمة حرية لازم ترفع ايدك فوق الحرية لقمة هنية هناخدها لو مش بالذوق هناخدها لو مش بالذوق هناخدها لو مش بالذوق Le 15.49 minuti e rientriamo in diretta dagli studi di Radio Città Fujiko con questa puntata ad eccezione di Fujiko Factory tutta dedicata a Patrick Zaki. E allora stiamo insieme da un'oretta, quasi ci sono già arrivati tanti messaggi, ma noi vi rinnoviamo l'invito a mandarcene altri. Ci scrive anche un altro ascoltatore o ascoltatrice dicendoci brave e forza Fujiko. Beh, grazie, fa sempre molto piacere. Però appunto sì, scriveteci, non mi ricordo se avevo già dato il numero o no, forse no, ma ridiciamolo, che è il 333 180 94 94. E nel frattempo prima ci ha raggiunto Pau, che abbiamo mandato così on air in diretta proprio mentre si toglieva la giacca, e in realtà era sempre la voce di Pau anche quella che ha dato il via a questa puntata. Esatto, un intro veramente molto emozionante. Pau, ieri sera quando lo montavo non riuscivo a finirlo perché continuavo a piangere. Sì, anche io ero molto emozionata e anche le compagne e amiche gli amici di Patrick stanno sentendo in questo momento, mi inviano i messaggi, e Rita, pure professoressa e direttrice del master qua a Bologna, mi ha scritto che sta seguendo la radio, che invia molta è molto emozionata e che ringrazia a tutte anche le conduttrici della radio per questa bella puntata. Sì, noi anche siamo molto emozionate, l'abbiamo ripetuto, ma io continuerò a ripeterlo fino alle 5, perché noi oggi in bene eccezionale saremo in diretta fino alle 5. Ringraziamo anche Mauro ed Erika che ci hanno lasciato il loro spazio di The Festival Backpack, che però tornerà domani, recupereremo con la puntata di martedì pomeriggio, e quindi puntata interamente dedicata a Patrick. E quindi Pau, tu che sei un'amica di Patrick, vorremmo sentire anche un po' le tue parole e raccontarci di lui. Sì, io stavo pensando mentre vi sentivo che con Patrick sempre ci mancava molto il sole a Bologna. Quindi questa serata io penso che lui sarebbe stato molto molto molto contento con il bel sole, il bel cielo, e anche ieri che è stato il anniversario del giorno, anniversario non so se si dice, infatti in questo momento così triste di aspettarlo, però sì, per noi ieri è stato molto bello anche raggiungerci per pensare a lui, per inviarle il nostro amore. E quindi quando mi sono svegliata e pioveva, però c'era anche il sole, ho pensato all'arcobaleno, ho pensato che questo era una segnale della libertà di Patrick. Sì, infatti dicevamo prima, è tornato il sole e quindi ci piace dedicare anche questa giornata di sole a Patrick in questo grigiume bolognese che accompagna tutte le nostre giornate invernali. Invece oggi c'è un sole splendente. Oltretutto, Pau, ieri è stato anche pubblicato un video che avete fatto voi colleghe, colleghi e compagni e compagni di corso di Patrick, in cui raccontate un po' e leggete e dedicate cose a Patrick. Dove possiamo trovarlo, ti chiedo? Sì, questo video lo potete trovare nella pagina di Facebook Patrick Libero, che gestiscono anche altri amici e amiche di Patrick, anche la sua sorella, la sua ragazza. E è un video che avevamo fatto compagni, amici e amiche di Patrick qua a Bologna, anche alcune che non sono più a Bologna, però erano delle compagne qua del master, e abbiamo voluto raccontare un po' perché Patrick è molto importante per noi, e non solo dire le cose che si dicono sempre degli attivisti e anche delle persone che difendono i diritti umani, ma parlare della sua umanità e del suo cuore grande e molto molto generoso. Certo, e infatti anche la nostra puntata di oggi vuole essere, diciamo, una narrazione o comunque una puntata dedicata appunto a Patrick come amico, come compagno e come persona che ingiustamente da un anno è stato arrestato ed è in carcere. Sempre appunto ricordiamolo, sì, in una carcerazione preventiva, però penso che sia molto molto bello e molto, insomma, importante il lavoro che state facendo, Pao, anche con le altre compagne e compagni di corso di Patrick, nel senso che un po' ci ricorda anche in un momento in cui questa vicenda fortunatamente è molto narrata e di cui quindi si parla molto, però ci ricorda anche del fatto che appunto stiamo sempre parlando di una persona con affetti, con relazioni, e insomma penso che sia sempre molto importante tenere questo punto abbastanza saldo. Sì, anche secondo me è molto importante, perché di solito si dimentica anche le emozioni, le passioni e le contraddizioni delle persone. Non per quello lui deve essere imprigionato adesso, e non per la difesa dei diritti umani. Siamo tutti d'accordo che quello è impossibile, di pensare in un mondo, se pensiamo in un mondo più giusto, più uguale, però anche perché una persona che era sempre pensando alle altre, è un po' quello che volevamo dire e far vedere nel nostro video. Una persona che sempre lottava e lotta, anche perché per me lui è ancora lottando, anche se vede nelle sue lettere, per tutte le persone che ama e per le persone che non conosce, sempre facendo riferimento a quello che per lui è importante e che è condividere il suo amore per le altre. Sì, intanto continuano a scriverci, questa volta non sul tablet di Radio Città Fujiko qua in regia, ma dal mio telefono. Mi arrivano messaggi anche privati, cioè da contatti, e mi scrive Rafa, un caro amico, che mi dice: siete bravissime ragazze, grazie, che bella puntata. Quindi grazie Rafa, ti salutiamo. E tra l'altro Rafa, che è anche lui un compagno di corso di Patrick, ha dedicato una canzone che sentiremo però più tardi, e noi rinnoviamo anche l'invito a scriverci alle ascoltatrici e gli ascoltatori al 333 180 94 94, perché ci piace pensare che comunque questa puntata l'abbiamo costruita assieme, e più sono le voci che animano questa puntata, più sarà forte il nostro messaggio. Ora io direi che ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone e poi ritorniamo più tardi, forse. Quando parte, ma giuro che parte. Sta partendo, ci siamo? Sta partendo, sta partendo. Partendo. Ma vie, aïe. شخصي تمام رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعل ندمة والعباد الغافلين قبلك وقبلي يا مسافر نعطيك بصيدي يا عالبكري شوف ما يصلح فيك بالمبيع. Scelto queste due canzoni perché me le fece ascoltare Patrick. E diceva che nel suo paese erano molto gettonate e una di queste, Aisha, la conoscevo già. Gli dissi che in Italia per un periodo la passavano spesso in radio. L'altra invece mi era del tutto nuova e diceva che mi sarebbe piaciuta sicuramente. E con il passare del tempo ho iniziato ad amarle entrambe. Ascoltarle mi riporta indietro al tempo in cui uscivamo a Bologna. Queste le parole di Clarissa, che ha voluto dedicare queste due canzoni che abbiamo sentito prima e dopo la pubblicità, che Patrick le mandò qualche tempo fa per fare sentire e poi, come ha detto lei, per fare innamorare di questa musica. E noi proseguiamo questa puntata speciale di Fujiko Factory, che durerà fino alle 17, quindi entriamo nella seconda metà di puntata e ce l'abbiamo fatta superare la prima. Io sono già contenta, anche perché sono in regia con ansia, emozione, poi c'è Paolo fianco che non vedo da mesi, quindi è un po' tutto così, però è giusto anche comunicarvelo e rendervi partecipi di questa cosa. Intanto continuate a scriverci, e ci scrive Taps dicendo che bella selezione, forza Patrick. E quindi grazie Taps di averci iscritto, e rinnoviamo per la 45esima volta, ma che non fa mai male, a tutte e a tutti di iscriverci al 333 180 94 94. E bene, eccoci, ciao. Eccoci. No, io volevo dire una cosa, perché ho visto che oggi inizia la campagna di pubblicazione dei manifesti nelle varie città italiane che hanno aderito all'iniziativa Free Patrick Zaki, perché è stato lanciato un contest artistico. Noi prima parlavamo di chiamata alle arti, e di questo si tratta, perché è stato lanciato questo contest in cui chiunque poteva fare e disegnare e costruire una propria grafica dedicata a Patrick. Il contest si è chiuso il 6 febbraio, quindi mi pare sabato, e oggi inizia appunto la affissione di questi manifesti per le città italiane. Prima vedevo delle foto bellissime, dei poster a Lecce, quindi Lecce si fa da portatrice di questa iniziativa, e quindi la cosa è iniziata, quindi speriamo di vedere anche in giro per Bologna tutti questi manifesti. Quindi questo è anche un esempio di tante iniziative che si sono fatte, e le tante ancora che si faranno per Patrick e per la sua libertà, come appunto la puntata di oggi. Prima dicevamo che è una puntata speciale, perché appunto abbiamo deciso di dedicare queste due ore di spazio all'interno di Fujiko Factory per fare una puntata anche corale e collaborativa e collaborata, e altre parole così, perché tutte queste canzoni, ricordiamo, ci sono state inviate dalle amiche, gli amici e le colleghe e colleghi di corso di Patrick. Molte di queste hanno anche delle bellissime dediche, che noi ogni volta che sentiamo aumenta l'emozione, però sono davvero bellissime, ed è bellissimo sentire così tanta voce per Patrick. Sì, esatto, infatti io direi che forse non l'abbiamo già fatto, sicuramente non l'abbiamo fatto abbastanza, ma questo è anche il momento per ringraziare tutte e tutti i colleghi e le colleghe di Patrick che hanno voluto contribuire a questa puntata, per aver condiviso con noi questa musica e queste dediche, che veramente per noi sono una grande emozione, della grande radio verità e della grande emotività in diretta. Ma oggi non poteva che non essere così. Infatti lo sapevamo, ma io direi di rinnovare ancora una volta l'invito a scriverci. Scriveteci anche condividendo le vostre emozioni, visto che stiamo facendo questa radio emotiva. Esatto, e oltretutto ricordiamo che al fine di questa puntata tutte queste canzoni poi verranno raccolte in una playlist sia su Spotify, ora non vorrei dire fake news, forse anche su YouTube, ma su YouTube rimaniamo sul forse, e sarà una playlist collaborativa, quindi chiunque potrà partecipare e potrà aggiungere canzoni da dedicare a Patrick. Quindi sarà bellissimo poi, quando Patrick sarà di nuovo qua a Bologna tra noi, fargli sentire tutta questa musica, e che è tutta dedicata a lui. Quindi io direi di passare a un'altra canzone e andiamo ad ascoltarci la voce di Aldi. canción de Venir la Luna es una canción clásica pero bambino, escrita da María Elena Walsh, cantautrice e poeta lésbica di Argentina, dedicata con amore e semplicità per Patrick, per il suo bambino interiore, che la luna e la sua magia ti abbracino oggi. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china toma té. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. Pau, tu mi devi aiutare ora per il titolo di questa canzone, perché io non pronuncerò dei titoli in spagnolo avendo te a fianco. Canción para bañar la luna. Ok, che significa? Canzone per dare un bagno alla luna. Bella, vuoi raccontarci qualche aneddoto dietro a questa canzone? No, tra l'altro devo dire che è una delle canzoni che a me piace di più, anche la dedica che viene dedicata al bambino interiore di Patrick, ed è molto, non lo so, è così molto tenera. Molto tenera, esatto, questa è la parola. Certo, mi piacerebbe anche fare il collegamento astrologico. Vai, perché siamo pronte. Infatti questa canzone per il bambino interiore di Patrick mi è piaciuta tanto, perché Patrick è di gemelli e quindi questa curiosità è come di bambino, che tutte le persone che conoscono a Patrick sempre nominano, per me è una cosa bellissima di lui e anche di tutte le persone. Maria Elena Walsh per noi, la cantautrice di questa canzone, non è solo una cantante per le bambine, i bambini, sino una poetrice, anche come ha detto Aldi, lesbica. E io voglio rimarcare questo, perché Patrick parlava sempre come di tutte le nostre lotte, come la lotta per la visibilità lesbica, anche la visibilità trans, e lui era molto collegato a questo attivismo che, come sapete, non è così facile nel suo paese. Per quello fa vedere anche il coraggio e questa sempre importante lotta che lui anche portava nelle lezioni, con tutte le persone che lui si rincontrava. Sempre aveva questo coraggio di parlare delle cose che altre non vogliono dire. Sì, leggo anche un messaggio che ci è appena arrivato, molto bello, che ci dice: oggi un brivido ha attraversato il cielo grazie della speciale puntata, un'emozione molto fine che arriverà sicuramente a Patrick. Quindi grazie a chi ha scritto questo messaggio molto bello. Io non ce la, cioè, sono tra le risate isteriche e la commozione. Infatti ora vedo di fronte a me Anna, che è visibilmente commossa, se possiamo dire così. Sì, ormai siamo nella radio verità totale, sì, esatto. Io sono Beh, è anche questo, è tanta emozione. E tanta emozione anche il prossimo pezzo. E l'amico di Patrick che ha dedicato a lui questa canzone ci ha anche scritto due righe che la nostra fantastica Anna poi ci leggerà. Here is a song for Patrick, Glue by Bicep, a Northern Irish song by Patrick's favorite Northern Irishman, James. Questa è una canzone per Patrick, Glue di Bicep, una canzone del nord dell'Irlanda dal suo compagno irlandese del nord Irlanda preferito, James. Quindi questa canzone l'ha dedicato James, che è un amico di Patrick che giocava a calcio con lui. E Patrick era molto conosciuto a Bologna anche per tutte le persone che giocavano a calcio con lui e tutta la passione che lui ha per il calcio. E una cosa che mi sembrava molto bella anche in un documentario che è uscito in questi giorni di Repubblica, sono due amici di Patrick che giocavano a calcio con lui, che io non conoscevo perché non sono del Master, e loro raccontano anche come lui sempre mescolava questa passione per il calcio e anche per la politica, e per quello le piacciono o no qualche giocatore secondo le idee che espressano, che esprimono. Quindi questo è anche una cosa che mi piace tanto di Patrick, che lui integra sempre le sue passioni e che non ha paura di esprimere le sue emozioni, le sue passioni in ogni campo, in questo senso è molto literale dove lui si trova. Sì, tra l'altro una delle canzoni che hai scelto tu, Pau, molto, si ricollega molto a questa cosa che hai appena detto, perché è una canzone su Maradona. Sì, quindi io non ne spoilerò, si dice così. Non spoilererai. Non lo sappiamo, non neanche noi, non fai spoiler. Devo dire che qua siamo tutte emozionate, veramente, e anche per me è molto importante, perché voi siete delle amiche, delle compagne, e mi ricorda anche il giorno che siamo andate assieme con Patrick, il 25 novembre, siamo andate nel bus di Non Una di Meno da Bologna a Roma, il giorno contro la violenza, le violenze di genere e contro le donne. Quindi siamo infatti tutti in questa rete di amore e di lotta con Patrick, e per noi è molto molto veramente emotivo essere qua. Sì, tra l'altro prima che Pau arrivasse qua con noi negli studi di regia ci ha diciamo avvisate dicendoci sarò molto emozionata, e noi, io e Anna, proprio motivatissime, abbiamo detto non ti preoccupare, ci siamo noi, Pau, che sicuramente siete piangendo, e noi piangiamo, e io devo essere seria quando infatti non so nemmeno cosa dire. No, perché sì, certo, credo, l'ho detto tante volte questi giorni, l'ho condiviso, e credo che anche le mie amiche e amici di Patrick condividono con me, crediamo molto in questo amore come motore del cambio, e crediamo molto alla liberazione di Patrick, e io credo che queste cose arriveranno subito a lui, anche se sia ancora in carcere. E allora Pau, adesso andiamo a sentirci la tua canzone che hai dedicato a Patrick. Io ho scelto questa canzone di La Guardia Ereje perché una delle passioni di Patrick è il calcio, e questa canzone è dedicata a Maradona. Io sono sicura che lui l'amerebbe, perché è impossibile non ascoltarla senza emozionarsi, perché inoltre per me rappresenta il mio sud, non solo l'Argentina, l'America Latina tutta, e anche il sud globale che condividiamo nel cuore con Patrick, dall'Argentina all'Egitto. E perché amo i suoi ritmi di tango e candombe che accendono il cuore e il fuoco dentro del cuore che Patrick espande e condivide. E proprio come il Diego, per noi in Argentina è un personaggio così pieno di contraddizioni che ha generato molte discussioni nei femminismi. Io rivendico la curiosità e le discussioni che fanno avanzare i movimenti, e mi mancano molto le discussioni che abbiamo avuto con Patrick, che non aveva paura di mostrare le sue emozioni e le sue passioni per ciò che ama e difende. Finalmente ho deciso di scegliere una frase della canzone che mi piace molto, che dice: con la sonrisa del pibe, con el abrazo guerrillero del corazón de Arrabal. Vuol dire con il sorriso del ragazzo, con il braccio guerrillero e il cuore di Arrabal, che è un tango. E io in questa frase ti sento molto vicino, Patrick, per il tuo sorriso, per il tuo braccio rivoluzionario, per il tuo cuore così tanto, tanto, tanto amorevole come il tango. Ti voglio bene, amico, e ti aspettiamo. Spero che questa canzone ti arrivi al cuore. Con un par de lienzos crotos esperando por el bondi, de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno, patadas en catalán. Llaman, nadie va a manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera, para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que en carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para ver ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole con el sol de nuestros sueños, te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para ver. De gambetear gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te piantaste de los muertos. Como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires. Para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos. Para verte gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola. Para verte gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola. Para verte gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola. Para ver. 16:35 minuti e rientriamo in diretta dagli studi di Radio Città Fujiko per l'ultima parte di questa puntata d'eccezione di Fujiko Factory dedicata tutta a Patrick Zaki. E stiamo ascoltando dall'inizio di questa puntata molte canzoni scelte per Patrick dalle sue amiche, amici, compagni e compagne di corso, e ora in realtà ne abbiamo ancora un po' da sentire, quindi ci avviamo verso questa fine di puntata con una carrellata di canzoni ancora. Sì, esatto, perché mi pare che ne manchino almeno 4 ancora e noi non vogliamo finire la puntata prima di averle sentite tutte. Tra l'altro la canzone che è passata prima della pubblicità, lo dicevamo prima, è una canzone che Pau, che è qua con noi, ciao Pau, ancora una volta ciao. Sono qua ancora. Esatto, ci sei, che ha dedicato a Patrick. Sì, io prima voglio ringraziare Giada che ha scelto questa ultima canzone, Ocean, perché è bellissima. Infatti io la sentivo ieri sera e mi ha fatto molto emozionare, e dopo questa canzone io ho scritto e poi ho detto parole che hanno cominciato la puntata, no? mi ha molto ispirato. E poi la canzone che ho scelto dedicata a Maradona mi dà molta nostalgia anche dall'Argentina e mi fa ricordare che l'anno scorso io ero in Argentina quando ho saputo questa terribile notizia su Patrick, e quello mi fa anche pensare molto a che lui era molto molto contento di andare in Egitto, come io di tornare in Argentina. Avevamo condiviso molto questa cosa che ci faceva molto bene, di tornare a vedere le nostre amiche, amici anche della nostra famiglia, e lui mi ha scritto un ultimo messaggio che sempre mi emoziona molto, dicendo che io mancavo molto qua e che lui era molto contento di tornare in Egitto, che per lui erano 5 giorni e poi tornava. Quindi è molto molto emozionante anche fare questi collegamenti, quando adesso siamo qua un anno dopo e Patrick ci sente, lo sentiamo ancora molto molto vicino. Grazie Pau. Pau ci vuole fare piangere in ogni modo. Però prima di scoppiare a piangere in diretta, andiamo avanti con il prossimo brano. Che mi fanno pensare a Patrick, ma ho scelto questa perché è così divertente e piena di speranza. Mi fa pensare alla sua risata, il suo senso dell'umorismo, la sua scherzosa allegria e il suo amore per l'avventura. Ho così tanti ricordi felici di quando ero nei vari bar e piazze di Bologna con Patrick. Questa canzone mi riporta tutti quei ricordi e mi rende davvero fiduciosa ed emozionata per il momento in cui potremmo vederlo di nuovo. Oh, We Stayed Up All Night, la canzone che si aggiunge alla playlist che ha composto la puntata di oggi di Fujiko Factory. Ripetiamo, è una playlist appunto scelta per Patrick da parte di amiche, amici e compagni e compagni di corso, e noi ripetiamo ancora l'ospite che è qua con noi, che è Pau, che comunque è un ospite speciale, come speciale anche la puntata di oggi. E io ripeto il numero per chiunque volesse ancora scriverci, visto che saremo insieme ancora fino alle 5, quindi siamo quasi giunte al termine di questa puntata. Il numero è il 333 180 94 94, quindi scriveteci messaggini, audio, sì, possiamo sentirli pure gli audio, o comunque se volete dedicare anche voi una canzone a Patrick, mandateci questa canzone che poi noi aggiungeremo alla playlist che oggi e in avanti costruiremo per Patrick. L'ho detta tutta ad un fiato, devo dire. È stato tutto un grande fiato qua sul 103.100. In realtà io andrei quasi verso ascoltarci la prossima canzone. Esatto, una canzone che è la seconda che ha scelto la sorella di Patrick. Nella prima mezz'ora ne avevamo sentito la prima, invece questa è la seconda, e la sorella di Patrick, Pau, che mi ricordi come si chiama? Maris, quindi ringraziamo ancora Maris, che fa parte di tutte quelle persone che oggi hanno contribuito a costruire questo momento per noi molto importante. Quindi questa da Maris è per Patrick. Sì, voglio aggiungere che lei ha scelto questa canzone e ha cercato anche un video che poi potremo mettere, se facciamo la playlist YouTube, perché ha i sottotitoli in inglese, almeno perché la lingua originale è in arabo, e in inglese si chiama I Thought There Was Still Time. فاكر لسه بدري وتاري العمر بيجري، الفراق بيجي من غير معاد، يعلم جوانا ويكتب نهايات، شايفك قدامي وما بينا فاصل، اشكي ليك وكلامي مش واصل، كلامك بيجري في دمي والاخر العمر هفضل مستني اشوفك تاني، واقفه بعيد بتشاوري تقولي ده ابني من لحمي ودمي، وتضحكيلي ضحكة وحشاني وفي حضنك يرمي أحزاني. وصلتيني لبر الأمان، اطمنتي وسبتيني للأيام، يا لو كنت معايا وتشوفي الكفاحك نتيجة ونهاية، بتألم ولازم أكمل زي ما مني كنت بتعلم. E sulle voci, insomma, che chiedono la liberazione di Patrick, noi rientriamo dagli studi di Radio Città Fujiko. Ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata, lo facciamo ovviamente rilanciando anche noi questa chiamata alla libertà per Patrick, una chiamata che veniva dalle piazze, le tante piazze che si sono organizzate in quest'anno per chiedere appunto la liberazione di Patrick nonostante la pandemia, soprattutto nel primo mese. Poi insomma, si sono trovati tanti modi per continuare ad esprimere solidarietà e per continuare a chiedere la liberazione di Patrick Zaki, come abbiamo cercato di raccontare anche in questa puntata e come tra l'altro continueremo a raccontare poi sempre da queste frequenze nella puntata dell'Indigesto di oggi, perché tra poco al nostro posto ci sarà il programma di informazione di Radio Città Fujiko, che è l'Indigesto, con il nostro direttore Alessandro Canella, che continuerà a parlare anche lui di Patrick Zaki. Quindi insomma è un tema molto caro a tutte e tutti noi in radio, di cui oggi continueremo a parlare ancora per un po', anche se ci stiamo invece avvicinando alla fine di questa puntata. E anche stamattina la redazione culturale ha deciso di dedicare tutto il palinsesto della mattina appunto raccontandoci tutte le varie attività, o comunque tutte le varie come si dice? Iniziative. Grazie Anna, io oggi non ce la posso fare, grazie. Iniziative. Non sono solo io che parlo male italiano. No, non ti preoccupare. Questa è pura ignoranza, e che appunto da Bologna ma anche nelle varie altre città si stanno attuando per Patrick. Invece la prossima canzone è stata dedicata da una compagna che ha fatto una dedica in spagnolo che sentiremo all'inizio del pezzo, e quindi chiedo a Pau di raccontarci un po' di queste sue parole. Sì, io semplicemente vorrei dire che questa canzone è in lingua euskera, che è la lingua del paese basco, e per me è una scelta molto molto bella di Lau, un'amica nostra, perché anche ha una storia di libertà, è un inno di libertà, e anche perché è una lotta per la indipendenza, quello che Patrick pure sempre difende. Semplicemente io tradurrò una parte che l'audirà in spagnolo. Patrick è quell'uccello che qualche giorno vedremo volare libero, perché i tuoi ali non entrano in nessuna gabbia. Si le hubiera cortado las alas, habría sido mío. No habría escapado, pero así habría dejado de ser pájaro. Y yo lo que amaba era un pájaro. Patrick es ese pájaro al que un día veremos volar libre, porque tus alas, amigo, no caben en ninguna jaula. Banizkion neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela ezen gehiago txoria izango, baina nonela, ezen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Siamo tornate e siamo quasi alla fine di questa puntata, puntata speciale che abbiamo deciso di dedicare a Patrick con voce e soprattutto musica, e da appunto come gesto di solidarietà e come gesto per dimostrare che comunque ci sono, che ci sono molte mobilitazioni per volere la libertà di Patrick. Quindi io ringrazio le mie colleghe di regia, qua in regia con me, Anna e soprattutto Pau, che è venuta a tenerci compagnia per questa oretta. Quindi grazie Pau, e grazie a voi ringrazio anche Lucri che ci ha tenuto compagnia alla primissima parte di puntata, e ringrazio anche tutte quelle persone che hanno contribuito di fatto a creare questa puntata. Noi ricordiamo che tutta questa, che faremo una playlist di tutta la musica che abbiamo mandato oggi, una playlist collaborativa, e quindi chiunque potrà partecipare e aggiungere canzoni da dedicare a Patrick. Noi ora purtroppo siamo già in ritardo probabilmente, però ci teniamo ancora a farvi ascoltare l'ultimo pezzo con l'ultima dedica di un compagno di corso e amico di Patrick, che è Raffa. Quindi io ringrazio a tutti e a tutti per averci ascoltato, però rimanete ancora sintonizzati sul 103.1, perché comunque la solidarietà va avanti e anche la puntata dell'Indigesto sarà interamente dedicata a Patrick. Quindi grazie a tutte e a tutti e buon proseguimento d'ascolto. Esatto, grazie Anna, ciao. Ciao. Ho scelto la canzone Solo le pido Dios di Mercedes Sosa, una cantautrice argentina che mi piace tantissimo. Questa canzone è una preghiera di qualcuno che chiede a Dio di non essere indifferente al dolore e alla sofferenza, e l'ho scelta per due motivi. Uno, perché mi ricorda il tipo di persona che è Patrick, che è qualcuno che si preoccupa per gli altri, che lotta contro l'ingiustizia. E secondo, perché vorrei che la gente che ci sente, che sente questa canzone, non sia indifferente alla vicenda di Patrick. Oggi, come sempre, chiedo la liberazione di Patrick. Patrick merita di rientrare in Italia, di tornare dai suoi e di riprendere il suo percorso accademico. Patrick libero. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber lo suficiente. ¡Vamos! señores. Gracias, Nicaragua. Muchas gracias.